Vi presentiamo ora Eclettica. Le trasmissioni proseguono ora a diffusione regionale. Spettacolo di cartoni animati. Canzone dopo canzone, volume dopo volume, siamo arrivati anche alla conclusione di questa settimana, che è la numero 15 della stagione numero 14 di Eclettica sulle frequenze di Rock FM. Giulio Caperdoni in voce, che vi annuncia quanto vi siete appena ascoltati, ovvero sia gli Evangelicals con Skeleton Man, e che la prima parte si era chiusa prima con i giapponesi Tennis Coats e poi con gli islandesi Singapore Sling. E che sta per parlare di De Niro, non nel senso dell'attore, ma nel senso del cantante italiano Davide Combusti, romano di origine, che ha deciso di usare questo pseudonimo che suona molto simile al cognome dell'attore. Invece al posto del de scritto di e c'è l'articolo determinativo inglese. About Love and Indifference, questo è il titolo del pezzo che apre il suo nuovo EP Ordinary Man, che preannuncia un album in uscita per la primavera 2008. De Niro, che ha avuto un'ottima stampa in questi mesi, probabilmente proprio per lo pseudonimo che si è scelto. Se mi chiedi alla fine che cosa lascio, lascio un libro che forse potrà aiutare qualcuno a vedere il mondo in maniera migliore, a godere di più della propria vita, a vederla in un contesto più grande, come quello che oggi io sento così forte. lascio qualche ricordo in persone come te e la Saskia. Ho sempre visto il mio ruolo di padre non come di qualcuno che faceva zizizi ai bambini, che li portava in piscina o a giocare a pallone. Per niente, non ero io. Per me il ruolo del padre era quello di uno che seminava ricordi, che seminava esperienze, odori, immagini di bellezza e misure di grandezza che vi avrebbero aiutato. Anche il mio portarvi a giro aveva questo scopo. Non ho mai preteso di essere più che un seminatore di bei ricordi. Questo era ancora la fine e il mio inizio, di Tiziano Terzani. Prevent your poisons from spreading, your government has sealed you all within this dome. Believe me, it's the last thing we wanted to do. I do own the company that makes the dome, but that's beside the point. Saturday was okay, I had you in my sleep. Never mind the blown charade, uncertain. I'm a sheep in wolf's clothes, I'm a sheep. Erano i Kaku Kanu, che non ripassavano da queste parti da un po' di tempo con Alaska Wolfslay, prima ancora invece quello che è il nuovo singolo dei Vampire Weekend, ovvero sia A-Punk. Questo inizio di 2008 ci ha regalato quello che è un nuovo album da parte degli American Music Club, un nuovo album che esce per Cooking Vinyl ed è intitolato The Golden Age, nuovo album che contiene 14 tracce, io ne ho scelta una che è la numero 3 ed è intitolata The Decibels and the Little Pills. Decibels and little pills and all the thrills you steal from the moon. Holding hands with bright new friends, names are only good for gravestones. Because he was sweet and so was she, and you needed love to fill the dark. Time is a current that only flows from warm hands to warm. No one here is gonna save you. No one here is gonna save. Forever, like the world would end if one of you let go. You woke up just in time for the sunset. You said, let's all go to the big rock show. And in the bar when you were playing air guitar, they suddenly vanished on their little cloud. This place you can't find a face without a trace of despair or a shroud. We'll be right back. Se vuoi chiedermi che cos'è che un padre, questo padre in particolare, voleva per te o per la Saskia, credo che oggi posso rispondere sinceramente che non avevo per voi dei piani precisi. Non è che avendo io un ufficio di avvocato, sognavo che studiaste legge e diventaste avvocati, o che avendo io fatto una carriera di medico, tiravo su un medico a cui passare il mio studio. Tu avrai avuto l'impressione che certe volte ti volevo spingere verso il giornalismo, ma non era affatto così. Uno non nasce per fare il giornalista, come non nasce per fare l'ingegnere o il tranviere. Queste sono tutte cose che uno fa per poter vivere più o meno piacevolmente. Io sempre piacevolmente. Se allora mi devo chiedere che cosa per te io ho sognato, te lo dico semplicemente. Volevo che tu fossi un uomo libero. Proprio a questo ci tenevo tanto e avevo quella strana formula, un po' grulla anche, un po', come dire, maschilista, che siccome tu eri l'uomo, mio figlio, sentivo che potevi essere un uomo libero, ma che non saresti mai stato felice, perché la libertà e la felicità non vanno di pari passo. Per la Saskia, invece, che mi assomiglia molto di più per tanti versi, precisa com'è, attenta ai suoi doveri, mi auguravo che fosse felice, sapendo che non sarebbe mai stata libera. Perché una donna si sposa, fa figli, e non è libera come lo sono stato io e come poi sei riuscito ad essere tu. Questa era l'unica formula con cui pensavo a voi. E tutto quello che vi ho permesso di studiare e che ho pagato salatamente, devo dire, e in alcuni casi anche inutilmente, non era per darvi un mestiere, era per darvi una cultura. Questo era ancora la fine e il mio inizio, di Tiziano Terzani. Eclettica, stagione numero 14, settimana numero 15, volume numero 5. Indice: The Antlers, Foot Village, Cassette Won't Listen, Tennis Coats, Singapore Sling, Evangelicals, The Nero, Vampire Weekend, Kaku Kanu, American Music Club, The Manhattan Love Suicides. Cari amici, il vostro programma è terminato. Vi diamo appuntamento a domani alla stessa ora.